Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Siete pronti per gli avvisi salutistici sui prodotti alimentari? Veri e propri alert che invitano al consumo moderato. La rivoluzione in Italia parte dai bambini. Questo è il tema dell'approfondimento della settimana. Per il focus sui trend invece rendiamo anche noi omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, lo facciamo a nostro modo e parliamo di consumi tricolore, quando la coccarda fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. C'è il cartellone che gioca sull'equivoco tra birra e Modella e invita a farsi la cubana, quello che usa il seno per pubblicizzare un traghetto, quello con la scritta «Montami a costo zero», tra quelli censurati nel 2010 dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. In aumento le segnalazioni dei cittadini, come il caso delle mamme di una scuola milanese che hanno dato battaglia al marchio di moda Silvia Nitsch per la pubblicità osé affissa di fronte alle elementari. Torna Fa la cosa giusta. L'ottava edizione della Fiera del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili si terrà a Fiera Milano City dal 25 al 27 marzo. Quest'anno protagonista l'alimentazione, agricoltura biologica e biodinamica, prodotti a filiera corta e chilometro zero, ma anche ricette contro lo spreco alimentare. Si chiude invece oggi a Verona la settima edizione di Model Expo Italy, la più grande fiera italiana, seconda in Europa, dedicata al modellismo. Il settore in Italia vale 25 milioni di euro di fatturato annuo e conta più di 1 milione di appassionati. Con la seconda generazione di iPad e l'esercito di prodotti rivali in arrivo sul mercato, il 2011 vedrà definitivamente esplodere la moda dei tablet e a farne le spese saranno i computer tradizionali. Domani Twitter compie 5 anni. Il servizio di microblogging conta ormai 200 milioni di utenti nel mondo, quasi la metà rispetto a Facebook, il principe dei social network. Operazione Cucine Aperte. Per tutto l'anno McDonald's invita i propri clienti, i curiosi e tutti coloro che vogliono saperne di più sul Big Day Fast Food a visitare le cucine dei suoi ristoranti in tutta Italia. Informazioni e prenotazioni su persapernedipiu.info. La borsa della spesa. Ricordate il film Piovono polpette? La morale della storia sta tutta in una parola: moderazione. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Circuito energetico! Sì! Ha funzionato! Lo adoro! Posso avere le calde? Vado pazza per la gelatina! Arriva! Mamma mia! La macchina decide da sola! Presto sarete nell'epicentro di una tempesta perfetta di cibo! Flint! La pizza ci insegue! Devo fermare la macchina. Adorate dai bambini, acquistate dalle mamme, criticate da medici e nutrizionisti, le merendine sono uno dei prodotti di punta del mercato alimentare per l'infanzia. Un prodotto sul quale da tempo si susseguono gli alert anti-obesità degli esperti. Avvertimenti che ora COP, prima in Italia, paese primo in Europa, lo ricordiamo, per bambini sovrappeso, ha deciso di mettere in evidenza su alcuni dei propri prodotti a marchio. Alla tabella nutrizionale vengono affiancati dei bollini gialli con la scritta consumo moderato. Su alcune delle merendine della linea dedicata all'infanzia, il Club 410, ma anche su prodotti borderline, per così dire, prodotti non esclusivamente dedicati ai bambini ma da loro consumati. Parliamo di bibite, patatine, crackers. Per il lancio di questa iniziativa COP ha commissionato alla Doxa un'indagine sulle abitudini alimentari e non dei bambini e dei loro genitori. Ecco che cosa ne è emerso. Oh, oh, oh, oh. femmine più attente dei maschi, nord più virtuoso del sud, nuove credenze e vecchi miti che si intrecciano. Dalla ricerca Kids & Co., focus sui consumatori baby 3-4 anni e junior 5-13 anni, emerge che le bambine sono più interessate dei loro coetanei ai temi della qualità del cibo e del benessere fisico. Nelle regioni del sud permane una propensione all'alimentazione abbondante, con la quantità che prevale sulla qualità. L'area geografica più virtuosa in quanto ad educazione alimentare è il centro. Le preoccupazioni dei genitori si concentrano sul tema frutta e verdura, seguito dai cibi troppo grassi e da un generico che mangi e beva solo cose sane e genuine. Ma un 17% degli interpellati, che nei baby sale al 20%, ha un'attenzione prioritaria al consumo di carne. Se si guarda dentro il carrello, si scopre però che nello stile alimentare dei giovanissimi vincono biscotti, merendine, dolci e succhi di frutta, consumati tra il 23 e il 26% del campione tutti i giorni, 4-5 volte la settimana dal 46%. Dalla ricerca emerge anche che le etichette vengono lette, ma non sempre risultano determinanti per le decisioni di acquisto. Ma il valore dell'informazione resta, ci spiega perché Domenico Brisigotti, direttore prodotti a marchio Coop. È vero che il consumatore ha dei tempi di scelta dei prodotti nei supermercati che sono limitatissimi. Un prodotto viene scelto nel giro di pochi secondi, quindi non c'è il tempo reale per leggere le etichette. È vero però dall'altra parte che le etichette poi accompagnano i prodotti a casa e rimangono sulla tavola, vengono quindi lette anche in un momento successivo a quello che è il processo d'acquisto e contribuiscono a creare consapevolezza. Crediamo che sia terminata l'epoca di un consumatore così catatonico davanti ai messaggi pubblicitari che gli arrivano dai vari media, che acquista in maniera irrazionale. C'è un consumatore critico, un consumatore sempre più attento. La trasparenza nell'informazione al consumatore è uno dei temi su cui si sta muovendo anche l'industria di marca, ci dice Paola Baraldi di Aidepi, l'associazione delle industrie italiane del dolce e della pasta, curatrice del sito merendineitaliane.it. L'industria dolciaria, che è rappresentata in Aidepi e che rappresenta l'80% del mercato di questi prodotti, se stiamo parlando di merendine, è sensibile da anni a questo problema dell'etichettatura e delle informazioni al consumatore, tant'è che attraverso un codice volontario ha adottato l'etichettatura nutrizionale, che pure non è obbligatoria per legge. Questi valori sono indicati proprio per facilitare il consumatore, non solo per 100 grammi, che ovviamente facilita il confronto tra un prodotto e l'altro, perché non tutti i prodotti hanno lo stesso peso, ma anche per porzione, parlando di merendine, una merendina. I consumatori non sono tutti uguali, e il mercato richiede prodotti diversi in funzione delle diverse esigenze. Un bambino sedentario ha bisogno di poter scegliere, la mamma del bambino ha bisogno di poter scegliere prodotti che siano adeguati a questa sua situazione, viceversa bambino superattivo può, ha diritto e deve poter scegliere un prodotto, una merendina più ricca, una merendina più golosa, oppure anche può decidere appunto di mangiarne anche un po' di più di queste merendine, non solamente una porzione. Ma in che misura marketing e pubblicità stanno prendendo questa direzione? Lo abbiamo chiesto a Stefania Borghini, docente di marketing all'Università Bocconi. Si stanno facendo ancora pochi passi. Le nostre ricerche che facciamo sui bambini di tutte le età dimostrano come ci sia una percezione sbagliata della qualità di ciò che i bambini mangiano, sia dal punto di vista dei bambini stessi, ma spesso anche dal punto di vista dei genitori. Per quanto riguarda il messaggio pubblicitario, il tipo di linguaggio usato, è ancora prevalente la filosofia, lo stile, per così dire, anni 80 e 90, aggressivo e consumistico? Per i bambini, secondo me, sì. Nella pubblicità rivolta per gli adulti ci sono stati dei progressi, perché c'è molta più attenzione, secondo me, alle aziende nel trasferire dei messaggi che siano veritieri, anche per le sanzioni che ci sono state negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece la pubblicità rivolta ai bambini, secondo me ancora no. Ci sono delle aziende nel campo alimentare che si sono date un codice di autoregolamentazione e quindi questo poi si vede nella pubblicità, quindi i bambini vengono ad esempio rappresentati nella pubblicità e mangiano le merendine e sono quasi sempre molto attivi in movimento. Però per quanto riguarda tantissimi altri prodotti no, ancora no, è molto molto aggressiva, ancora volta all'idea di accumulare oggetti, di accumulare prodotti. E soprattutto le aziende che sono sicure della qualità che stanno offrendo possono solo beneficiare dall'avere consumatori preparati. Essere e avere. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Di nuovo in studio con Essere e Avere, ci piacerebbe ascoltarla tutta, la canzone di Giorgio Gaber. Il minutaggio purtroppo non ce lo consente. Tra patriottismo autentico e retorico, tra i discorsi e le polemiche di questi giorni, l'abbiamo scelta per l'omaggio che anche noi di Essere e Avere vogliamo fare ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Lo facciamo a nostro modo, parlando di consumi tricolore. Questo è il tema del focus sui trend di oggi, in compagnia come sempre della nostra esperta. Patrizia Martello di Memeti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dalla moda al design, dal web al cibo, fino alle auto, ai giocattoli, ai fumetti, persino in queste settimane abbiamo assistito a un fiorire di prodotti e iniziative celebrative. Edizioni limitate o restyling, per molte aziende mettere in evidenza il tricolore sui propri prodotti è stata l'occasione per rilanciare il Made in Italy, l'Italian Style, l'Italian Pride, anche l'orgoglio italiano. Patrizia. Sì, il mondo dei consumi è naturalmente fortemente investito dall'evento dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il binomio è Italia Day e Made in Italy. Italia come love brand, perché è un marchio che genera amore nel mondo, la bandiera tricolore usata come un marchio globale dell'italianità che in questa occasione ancora di più trascina il mondo immaginario italiano legato a energia, creatività, stile, qualità, bellezza, sapienza del fare, eccetera. Ed ecco, come dicevi molto opportunamente, il fiorire di edizioni limitate di prodotti brandizzati Italia. Dal Moonboot di Tecnica, il leggendario Dopo Sci, quello originale, icona del design che l'anno scorso ha celebrato il 40° anniversario lanciando la sua nuova linea urbana, e quest'anno lancia la versione celebrativa italiana, bianco, rosso e verde, dal prossimo inverno in soli 150 esemplari in 15 negozi italiani esclusivi. E poi edizioni limitate di prodotti con restyling del packaging a tema bandiera italiana, e qui l'elenco sarebbe infinito. Citiamo solo alcuni prodotti come i Tic Tac colorati nel formato da 100 confetti, ma anche la Nutella, sempre di Ferrero, nel formato speciale da 1 chilo, con l'etichetta tricolore e la scritta Buon Compleanno Italia. Ma anche la pasta, i fusilli De Cecco, per esempio, nei 3 colori, o le insalate, sia nella busta che nei contenuti con i 3 colori, ma anche i giochi da Quercetti, storica azienda italiana, fino a Monopoli. Tiratura limitata in versione tricolore anche per Arbre Magique, l'alberello profumato icona più venduto al mondo, 13 milioni di pezzi solo in Italia. E poi anche Natuzzi ha rilanciato la poltrona Sound tricolore, quella col sistema audio integrato, anche questa un'icona, con il cuscinetto poggiatesta tricolore. Mondo moda e dintorni, anche qui spuntati come funghi borse, gioielli, scarpe, accessori, ma anche abiti e automobili bianchi, rossi e verdi, dagli occhiali Salice a Italia Park a 150 di Belstaff, alla Lamborghini Gallardo tricolore commemorativa, alla 500 di Fiat Gucci. Inelencabili anche le campagne stampa di marchi che in certi casi valorizzano un qualche loro elemento costitutivo coerente con la ricorrenza, per esempio la data 1846 per Peroni, con la bottiglia di birra vestita con la giubba rossa, la spada, il berretto e il fazzoletto garibaldino, e il marchio trasformato da Peroni in Per Noi da 1846. Ma anche senza un legame specifico tra Unità d'Italia e marchi e prodotti pubblicizzati, la frequenza con cui ricorre e viene ripetuta la parola Italia nei testi pubblicitari di questo periodo è naturalmente altissima, così come la comparsa della bandiera o della coccarda semplicemente a cornice o ornamento. Sul tema artigianali qualità, un concetto forte legato al Made in Italy. Su Etsy Italia Team si legge Beauty is handmade in Italy, bellezza e artigianalità come binomio quindi che qualifica le produzioni italiane. Un concetto ripreso da moltissime iniziative, questo del fatto a mano, della sapienza artigianale legato ai prodotti italiani, dai tutorial per l'autoproduzione di coccarde che spopolano in rete, come quella ideata da 4 studenti di Urbino che hanno creato una campagna viral per coinvolgere il popolo di Facebook proprio sulla produzione di coccarde. Dateci un bacio, oggi è il nostro compleanno, è la scritta oro su bandiera tricolore che si trovava in home page del sito di Italy a New York dal 12 marzo ad oggi. Più di 50 prodotti italiani sono stati venduti con lo sconto del 50% e in questo modo Italy ha celebrato l'unità d'Italia facendo, diciamo così, quello che sa fare meglio, cioè offrire cibo di qualità e promuovere la cultura del vivere oltre che del mangiare italiano. Moltissimi video virali che hanno invaso la rete da anni. NinjaMarketing.it abbiamo scelto questo dissacrante di CogitoErgoSud.it. Ho messo la bandiera dell'Italia alla parete d'indosso giorno. Filomena, la ragazza che mi viene a sistemare casa, si è messa a ridere. Ha detto: ah, ti piace un pallone. Lei non sa cosa significa questa bandiera. Ha detto che la vede in televisione ogni 4 anni, ai mondiali del pallone. Ho cercato di spiegare che è il compleanno dell'Italia e adesso la vede più spesso, ma non è facile spiegare cosa significa questa bandiera. Neanche io lo so bene. Ho detto: guarda, fai attenzione, sta davanti a certi palazzi importanti, davanti a certi portoni. Sì, è vero, ha detto Filomena, la gente la vede sventolare sulla mazza, ma continua a camminare, non so fa passare manca pa capo. E mi ha detto che se mi piace di tenere la bandiera nel soggiorno, la lascio. Ha detto: la tieni come arazzo. Tengo l'arazzo, hai capito? Viva l'Italia! Patrizia, non solo prodotti, anche la rete, le aziende, il mondo della cultura in occasione del 150esimo hanno promosso una serie di iniziative proprio per rilanciare l'italianità, per così dire, sotto gli aspetti più diversi. Sì, oltre agli eventi ormai rituali, per così dire, che movimentano città e piazze come le notti bianche, quella tricolore di Torino con le sfilate di moda tricolore e altre manifestazioni celebrative, popolari, istituzionali, ci sono progetti e altre iniziative molto partecipative, oltre che celebrative, degne di nota, come quella dell'associazione no profit Green Geek con Unidata e Wired per festeggiare i 150 anni dell'Italia posando antenne per la connessione wifi libera in 150 piazze italiane, o il progetto Connecting Italia di AltraTV.tv in collaborazione con Tiscali, ideato da Giampaolo Colletti e lanciato proprio il 17 scorso, una diretta online a rete unificata, quindi in ogni angolo d'Italia, che è andata anche su tutte le micro web TV e altri media online italiani, per cominciare a costruire questo obiettivo, proseguendo poi nei 7 mesi dei festeggiamenti previsti, il vocabolario dell'Italia Unita. 150 parole rappresentative dell'identità del nostro paese, costruite dal basso naturalmente, quindi un progetto plurale partecipato grazie all'attivazione dei social network. E poi, degno di nota, di nuovo, il concorso Telecom I Nuovi Mille, alla ricerca di giovani innovatori per rilanciare l'Italia. Sul sito si legge: iscriviti, raccontaci la tua idea, ti aiuteremo a trasformarla in realtà. Molte le uscite seriali, i volumi e gli albi speciali a fumetto a tema rinascimentale, da Topolino e l'Italia riunita a 150esimo Storia d'Italia a fumetti, 6 storie non di eroi ma di gente comune, al Naviglio battagliero di Martin Mister, a Garibaldi, resoconto veritiero delle sue valorose imprese ad uso delle giovani menti, di tuono pettinato in chiave umoristica. E anche il mondo della cultura, diciamo così, altissima, ha associato iniziative seminali molto importanti al compleanno italiano. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ha lanciato infatti il portale treccani.it. Da oggi disponibile a tutti sul web, 3 anni di lavoro, 2 milioni di euro, convivrà con l'enciclopedia cartacea naturalmente. In futuro ospiterà pubblicità, avrà una web TV, un canale YouTube e oltre 500 testate online di settori scientifici e accademici, più un motore semantico che aggregherà non solo i lemmi che hanno a che fare con la voce correlata, ma anche foto, citazioni, immagini, eccetera. Alle italiane DOC è dedicata l'iniziativa Curve d'Italia, nome della collezione autunno-inverno di Elena Miró, che alle recenti sfilate milanesi l'ha presentata come inno glamour alla bellezza piena della donna italiana, non valorizzata se non trascurata dal fashion system. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su Consumi Tricolore dintorni? È il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Alle celebrazioni del tricolore non poteva mancare l'omaggio del design e in particolare di uno dei marchi più rappresentativi dell'eccellenza italiana nel mondo. Cassina ha infatti per l'occasione commissionato al designer Gaetano Pesce, da tempo residente a Manhattan tra l'altro, una collezione di 61 tavoli numerati secondo l'ordine in cui i territori della penisola vennero annessi appunto nel 1861. Ogni tavolo è stato realizzato in una speciale resina e attraverso un processo di produzione che ha reso possibili effetti di miscelazione casuali dei tre colori della bandiera. Tutti gli esemplari, inoltre, se idealmente congiunti, riprodurrebbero il profilo inimitabile di uno stivale di 25 metri per 20, con tanto di isole maggiori e minori, queste ultime appositamente fuori scala per sottolinearne lo specifico contributo all'unificazione. Insomma, un progetto metafora di una moderna Italia unificata che racchiude in sé molteplici e irripetibili identità, simili ma diverse, proprio come i tavoli pezzo unico che sono stati messi in vendita non solo negli showroom di Cassina di tutto il mondo ma anche online e possono essere acquistati direttamente o tramite offerte. Eccezione fatta per i 5 che rappresentano i luoghi più rilevanti del Risorgimento, ossia Torino, Milano, Genova, Marsala e Teano, che saranno battute all'asta appunto tra New York e Londra fino al prossimo 2 giugno. Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, fuori di retorica, passa anche da qui il rilancio del Made in Italy. Certo, la grande industria degli eventi ha fatto dell'Italia Day un moltiplicatore di occasioni sociali, di consumo, di entertainment, dallo spettacolo alla politica, allo sport, alla cultura, per mobilitare collettivamente cittadini ma anche consumatori. Gli eventi, come sappiamo, sono la nuova forma di religiosità laica che scandisce il nostro presente, come dice Andrea Pollarini. Quindi, per forza di cose, il binomio Made in Italy eventi costituirà, se opportunamente utilizzato, un volano per il rilancio dei nostri marchi e del Made in Italy anche come simbolo immaginario dell'Italia nel mondo. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it. Andate nella sezione programmi, pagina di Essere Avere, da lì potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate. Appuntamento a domenica prossima, come sempre, alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.